Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 26 di Vagabondo in giro per il mondo. Anche oggi, mercoledì 12 aprile dell'anno politico 2017, al microfono per voi il vostro speaker Vagabondo Fumino. E chiaramente quella di oggi è una puntata molto particolare perché è il mercoledì e cade precisamente il centro della Settimana Santa che ci sta conducendo alla festività di Pasqua, che chiaramente per la Chiesa Cattolica è una festività molto importante e come lo è in effetti molto importante anche per tutti noi, compreso le persone che effettivamente magari non sono cattoliche o addirittura non hanno fede religiosa. Ci mancherebbe altro, non è questo lo scopo di questo incipit della puntata di oggi, non è assolutamente per criticare o giudicare chi la pensa in un modo piuttosto che in un altro e viceversa, ma tant'è. C'è da farsi delle domande, come sempre, dietro agli insegnamenti religiosi, al di là del fatto che crediamo o meno nella religione, in quello che ci viene detto, in quello che viene professato e come viene professato. Al di là di tutto questo, ci sarebbe sempre da capire, da immedesimarsi negli insegnamenti religiosi, perché in effetti sono degli insegnamenti che portano a delle linee guida della vita molto interessanti e che in effetti, pensandoci bene, diciamo che i testi sacri sono testi antichissimi ovviamente, ma se ci fate caso anche oggi sono validi. Quello che viene scritto in questi testi vi si ripresenta sotto gli occhi più o meno quotidianamente e spesso lo subiamo e spesso ne siamo i carnefici, vale a dire ci sono delle cose che sono, come dire, sconsigliate che ci capita di subire, che ci capita di fare, e ci sono delle cose consigliate che ci capita di ricevere, come ci capita di fare. Bene, detto questo, la Settimana Santa è una settimana importantissima che chiaramente si apre con la Domenica delle Palme, poi lunedì, martedì, mercoledì santo e poi i giorni top, diciamo, della liturgia. Chiaramente il giovedì è il giorno dell'ultima cena, quindi l'ultima lavanda dei piedi e il tradimento nei confronti di Gesù, mentre il venerdì è il giorno della morte e il sabato poi fino alla domenica è il giorno in cui si ha la resurrezione dal regno dei morti di Gesù Cristo. Bene, però quello che mi interessa approfondire in questa puntata di oggi non è tanto l'aspetto religioso da questo punto di vista, è proprio l'aspetto umano, perché chiaramente non voglio affrontare l'aspetto religioso perché chiaramente ognuno la pensi come gli pare, non è quello il mio scopo, ma invece vediamo cosa significano il lunedì, il martedì e il mercoledì, che è oggi, della Settimana Santa. Praticamente, bene, il lunedì è il giorno dell'amicizia. Gesù, secondo le scritture, passa questo giorno a Betania in compagnia dei suoi tre migliori amici, che sono Marta, Maria e Lazzaro. In questo giorno si celebra l'amicizia. Gesù è, nelle scritture, una persona che gode molto delle amicizie e degli amici, quindi essere un suo amico è un dono ma è anche una missione, attenzione. Bene, passiamo al martedì della Settimana Santa, che è il giorno dello sdegno, diciamo, è il giorno in cui Gesù si reca al Tempio e nota che i commercianti avevano trasformato il Tempio in un mercato, quindi ci sono i banchi e ci sono lo scambio con denaro delle merci. Gesù rovescia i banchi e, sdegnato, apostrofa i commercianti che hanno posto al centro del tempio il denaro. Bene, il mercoledì, che è oggi, è il giorno della tristezza, così è chiamato. Bene, è il giorno in cui Gesù si sente tradito, capisce che sarà tradito da uno dei suoi apostoli, quindi da uno delle persone a lui più vicine. E il tradimento è in cambio di, anche in questo caso, dei 30 danari, i famosissimi 30 danari che Giuda riceve per il tradimento nei confronti di Gesù e con cui poi lo porteranno all'impiccagione con la sacca ancora con i soldi dentro, con i danari dentro, va bene, questo succederà poi dopo. Bene, però soffermiamoci un attimo, l'amicizia, lo sdegno e il tradimento, ma non vi sembra anche a voi, perché questo è quello che sembra a me, magari io sono un visionario, quindi non prendiamo per oro colato qualsiasi cosa vi dica il vostro speaker vagabondo, ma insomma il pensiero è vagabondo e quindi se ne va, e di conseguenza a me mi sembra di leggere in questo una cosa che vedo accadere continuamente, persone che ti fanno gli occhi dolci davanti, ti danno le pacche sulle spalle e poi appena possono, se ne hanno l'occasione, ti giri e ti arriva subito un bel calcio in culo. Oppure, che ne so, persone che ti stanno vicine e tutto quanto, ma addirittura se hanno possibilità per danaro di farti un torto, te lo fanno. No, chiaramente mica tutti sono così, come tutti non sono buoni, tutti non sono cattivi, questo è un dato di fatto, ci mancherebbe altro, però è una cosa che succede molto spesso e addirittura mi è capitato di venire a conoscenza di una persona che in visita ad un diciamo amico, se così lo vogliamo chiamare, sì, diciamo amico, perché alla fine anche Giuda è un amico di Gesù, no? Quindi un amico morente, perché è un amico morente purtroppo, addirittura gli ha sottratto, che ne so, 10 euro che c'aveva nel comodino dell'ospedale. Bene, dico io, allora ma cosa si fa? Ma di cosa stiamo parlando? Questi sono insegnamenti che andrebbero effettivamente capiti, andrebbero effettivamente presi ad esempio, perché vivere in armonia e in pace non passa da queste cose. Cioè, e qui è tutto scritto qua. È tutto scritto nelle scritture, negli insegnamenti che ci dà, e si torna lì. Non vi dico di stare dietro a una chiesa piuttosto che a un'altra, fate come vi pare, però gli insegnamenti ogni religione li porta, ogni religione mette i propri fedeli a conoscenza degli insegnamenti, ma così anche chi è laico, nel senso, l'insegnamento civile alla fine è anche quello, quindi tutti abbiamo gli strumenti per vivere una vita armoniosa, per vivere una vita senza cadere in bassezze, in squallori che ci abbassano in effetti e che probabilmente ci si ritorcono contro, se non li eventualmente poi metabolizziamo, se poi non li analizziamo, se poi non ci rendiamo conto delle cose sbagliate che abbiamo fatto e poi se poi non ci redimiamo da questo. Però a me questa cosa della Settimana Santa mi ha fatto veramente pensare in quest'ordine: amicizia, sdegno e tradimento, è perché è quello che succede purtroppo a tante persone e che purtroppo può succedere a chiunque di noi, sia contro a noi, sia essere noi, perché attenzione, io per primo che dico queste cose non è che stia qui perché sto sul pulpito a essere il più bravo di tutti, io per primo sono un essere umano come tutti e quindi sono soggetto anche io a continue prove, a continue situazioni da gestire in qualche modo, e di conseguenza sono anch'io soggetto evidentemente come tutti a cadere magari nelle tentazioni. La cosa è importante è riuscire in qualche modo a non caderci e riuscire in qualche modo a seguire quei segnali che ci portano verso una strada buona, verso una strada armoniosa per una vita un attimino più serena, perché alla fine se fai una cosa che è contro la tua natura, perché magari ti approfitti dell'occasione, perché magari, come si dice, l'occasione fa l'uomo ladro, e poi però ci stai male dentro e lì magari ti parte una malattia, cioè tutto è possibile, quindi e c'è da stare molto sereni in quello che facciamo, nella vita che conduciamo, essere grati per quello che abbiamo e effettivamente desiderare così cose che non abbiamo non ha tanto senso, figuriamoci se lo ha addirittura sottrarne oppure mettere in gioco le vite di altre persone per avere un tornaconto personale, che qui chiaramente nell'insegnamento sono i denari, ma poi possono essere tante cose, non è che per forza è il denaro, cioè dici io non l'ho fatto per denaro ma l'ho fatto per avere, che ne so, un passaggio in auto io piuttosto che lui, è la stessa cosa, non è che è per forza il denaro il motore di queste cose. Quindi cari amici, c'è da stare molto attenti a questo e non lo so, mi raccomando, fate caso a queste cose, fate caso a quanto siamo in grado di seguire una linea molto molto molto tranquilla, molto molto pacata, in armonia, per il bene, sempre per il bene, non però il bene personale a discapito del male di altre persone, ma il bene collettivo, come avevo già avuto occasione di dirvi in un altro appuntamento del Vagabondo: win-win, se vinci tu, vinco pure io. Questo è un dato di fatto, quindi se pratichiamo questa teoria, secondo me, riusciamo a vivere un attimino più sereni. E cari amici, per il terzo appuntamento con il Caffone Vagabondo andiamo un attimino più sul leggero, ma restiamo un po' in argomento, perché il caffone di oggi, attenzione, potresti essere proprio tu, e il caffone di oggi, il caffone vagabondo di oggi, è quel caffone che è, diciamo, un tirchio, come si può definire, è quello che arriva al bar, traccheggia e magari ti vede al bancone, viene lì e come va e come non va, fa due chiacchiere e si prende un caffè e poi al momento di pagare chiaramente tergiversa, chiaramente se la prende comoda, sta lì, si guarda intorno, magari saluta un altro, poi chiaramente tu che sei lì, che te ne vuoi andare, tiri fuori i soldi per pagare il tuo caffè, che fai, non lo paghi anche a lui, glielo paghi e quello se lo prende, oppure il caffone che è lo stesso, è la stessa persona che poi dopo preso questo caffè andiamo in birreria, bene sì andiamo in birreria, ma mai che lo avessi visto comprare una birra in birreria, però appena qualcuno lascia un fondaccio di un bicchiere con un mezzo sorso di birra è il primo ad avere sete, che se lo agguanta e se lo beve e addirittura nemmeno dice grazie. Di conseguenza, cari amici, questo secondo me è un grandissimo caffone. Bene, la puntata di oggi termina qua e detto questo mi auguro che sarete più armoniosi di quanto lo siate stati fino ad oggi e in attesa della Pasqua vi auguro di passare una buona Pasqua e come sempre di essere saggi.